festival di 2 giorni che si terrà a TPO, dove proponiamo concerti di musica jazz di derivazione africana, con radici africane. Ci sarà anche del cinema, 3 film, dei DJ set e anche la presentazione di un libro pubblicato quest'anno, la traduzione di Grande Musica Nera di Paul Steinbeck, che ripercorre un po' la storia dell'Art Ensemble of Chicago, un gruppo storico di jazz appunto di Chicago. È un tema coraggioso visti i tempi che corrono, ma che Atlantico sia un festival coraggioso lo abbiamo scoperto perché è totalmente autoprodotto. Sì, siamo coraggiosi in diversi sensi, possiamo dire, nel senso che sicuramente essere completamente autoprodotti e investire le risorse personali di ognuno e del TPO che comunque ci aiuta e ci segue in questo progetto non è scontato, nel senso che è difficile mettere in piedi un programma del genere con le sole proprie forze, non ricevendo aiuti pubblici né sponsor, e questo sicuramente lo viviamo tutti i giorni, nel senso che ci troviamo in 5-6, comunque la squadra di Atlantico, a lavorare su 50.000 cose contemporaneamente, ma credo che saremo soddisfatti alla fine. Poi sì, le tematiche in questo momento non sono scontate perché diciamo il clima politico e culturale lo conosciamo tutti, però vorrei sottolineare che quella del festival non è stata una decisione in reazione alle elezioni eccetera, è stata veramente la volontà, soprattutto all'inizio, di me e Christian, che è l'altra persona, che Christian Adamo, che cura la parte musicale, di fare un festival per poter promuovere questo tipo di musica e questi artisti anche della scena locale, e per cambiare un po' la rappresentazione che c'è intorno a questo tipo di culture, di musica. Poi naturalmente diventa necessariamente anche una risposta al clima politico, sociale, culturale del momento. È un modo per conoscere anche mondi nuovi, insomma, comunque che non si conoscono molto nei nostri territori. Tu citavi la musica, vedo tra, come dire, i gruppi di punta Ezra Collective. Sì, Ezra Collective sono veramente un gruppo straordinario per me, nel senso che è un po' uno dei gruppi di punta della scena jazz inglese degli ultimi anni, che ha veramente sfornato progetti molto interessanti, sia che hanno avuto un eco mediatico molto grande, sia anche molto underground. Infatti suggerisco a tutti di andare a sentire le playlist che proponiamo sulla nostra pagina, perché abbiamo fatto appunto un focus sul jazz inglese. Loro sono giovanissimi, nel senso che potrebbero benissimo essere degli Erasmus che vengono a studiare a Bologna, e invece sono una delle band chiave di questo movimento jazz inglese, e mescolano ritmi K-pop, drum and bass con l'improvvisazione jazz, con l'afrobeat di Fela Kuti, perché appunto i due fondatori sono due fratelli anglo-nigeriani. Sarà sicuramente un concerto energico e molto divertente. Ci sarà anche spazio per il cinema, in particolare c'è l'anteprima italiana di un documentario, Waga Girls. Sì, è un documentario che abbiamo scoperto qualche mese fa in primavera, abbiamo avuto la fortuna di vedere in Francia, perché è stato uscito nelle sale praticamente solo in Francia, precedentemente penso solamente in Svezia, ed era stato presentato appunto in Burkina Faso al Festival Panafricano di Cinema. Ed è un film che parla, è un documentario in verità, che parla di un gruppo di ragazze che segue una formazione per imparare a diventare delle carrozzaie a Ouagadougou, che è la capitale del Burkina Faso. Ed è un documentario molto interessante, perché dà uno sguardo non scontato e molto anche intimo sulle storie di queste ragazze, quindi cercando di costruire un po' tutti gli stereotipi che ci possono essere riguardo all'Africa in generale, riguardo anche alla donna africana, alla figura della donna in generale. Quindi siamo molto contenti di essere riusciti a portare questo film in anteprima. Qualche altra segnalazione veloce del programma? Sabato sera ci saranno anche 2 DJ set dopo il concerto che vedrà Faud, che è un progetto bolognese molto interessante, quindi la serata di sabato sarà comunque anche molto interessante. Fauda, poi DJ set che saranno tra virgolette abbastanza sudati, poi direi sì, la presentazione del libro. libro sarà molto interessante comunque, perché Dudu Kwate, che è un membro degli Art Ensemble of Chicago che si è unito al gruppo storico negli ultimi anni, farà anche una performance in occasione della presentazione del libro. Anche Newton Aduaka, che è il regista del film che proietteremo sabato, sarà presente al festival e ci sarà una piccola tavola rotonda di presentazione anche lì, quindi è un programma molto denso, però veramente ricco e variegato ma coerente, quindi invito tutti a venire al TPO questo weekend. Come fare per vedere il programma completo? Si può andare a vedere l'evento di Facebook e la nostra pagina, se no c'è anche la pagina del crowdfunding dove si possono acquistare le prevendite, dove c'è appunto il flyer e si può guardare eventualmente anche lì.